ok? E noi venerdì scorso abbiamo occupato la scuola contro il governo Renzi e le sue riforme sia sul canale della scuola che del mondo del lavoro. L'autunno caldo è finalmente cominciato e ad oggi sono quindi anche Virgilio e Cavour nell'ondata di occupazioni. Noi contestiamo questa buona scuola che in realtà non va a coprire quelle che sono le necessità degli studenti, cioè dare un diritto allo studio gratuito, accessibile a tutti, che viene sempre più minato da quello che è il contributo volontario, che poi non è veramente volontario come ben sappiamo, dal caro libri, dal caro trasporti, che non permettono una vera e propria accessibilità allo studio. Questa riforma in realtà va a cambiare per intero la struttura della scuola, introducendo i privati, introducendo un sistema diverso, per esempio sul piano retributivo dei docenti, sotto la solita finta parola della meritocrazia, in cui sostanzialmente il 66% dei docenti vengono premiati e il 33% non viene premiato, il che è un paradosso evidente, in cui in una scuola in cui ci sono tutti docenti meritocratici non viene premiato soltanto questo 66% che rappresenta ben poco, ma può succedere anche il contrario. Noi abbiamo ripreso la scuola perché sentiamo che la riappropriazione, quindi dimostrare nel pratico come deve essere la scuola, oltre ovviamente al piano della didattica, ma che ci deve essere molto altro, vogliamo dimostrarle più a persona, vogliamo dimostrare anche attraverso opere di ristrutturazione che la provincia e il governo non sta stanziando soldi per l'edilizia scolastica, che è sempre più urgente e che la fatiscenza dei nostri istituti si fa sentire sempre di più. C'è bisogno di manutenzione, c'è bisogno di riparare sia le piccole cose ma anche i grandi problemi, perché ad oggi le scuole vivono in una situazione profondamente problematica e questo governo sta facendo soltanto operazioni di facciata attraverso la sua subdola retorica, dicendo anche queste consultazioni con cui gli studenti avrebbero dovuto esprimere il loro pensiero e dire cosa ne pensavano di questa riforma, ma è stata una grandissima presa in giro in cui ci stava un questionario online a crocette ed anche una finta consultazione all'interno delle scuole con discussioni manovrate e indirizzate al gioco di chi le voleva fare. Per questo noi vogliamo dire, dopo che le consultazioni sono finite il 15 novembre, che le consultazioni iniziano ora, iniziano nelle scuole, iniziano con chi le scuole le vive e con chi sa quali sono le esigenze dei singoli studenti, le necessità dell'intero sistema scolastico. Per quanto riguarda il mondo del lavoro, noi crediamo che questa riforma, il Jobs Act, non ricopra quelle che sono le esigenze, in cui si cerca di livellare tutti i diritti verso il basso, di toglierli chi ne ha invece di pensare a chi non ne ha. Pensiamo che si voglia precarizzare per intero il mondo del lavoro e non possa essere questa la soluzione, perché nel nostro futuro se si vuole andare in maternità, se si vuole scioperare, dire il proprio pensiero, se si vuole esprimere quelle che sono le proprie necessità, non lo si potrà fare, e questo è un problema piuttosto evidente, che il governo invece supera dicendo beh, oggi ci sta chi non ha questi diritti, facciamo un'opera di uguaglianza in cui togliamo i diritti a tutti. Il problema è che bisogna aiutare il mondo precario ad evolverlo e a aumentare le tutele dei diritti anche in quel mondo, non togliendo a chi già ce l'ha. Questa è un po' la situazione. Prima commentavamo alcuni articoli, uno uscito sul Leggo, insomma abbastanza così, che riportava l'occupazione delle scuole, riportava quegli episodi magari un po' più complessi che sono successi nelle diverse scuole, dicendo nelle scuole poi quando ci sono le occupazioni c'è sempre la violenza. anche sulla stampa, ve lo consigliamo di andarlo a leggere. C'è un articolo interessante del, del sottosegretario all'istruzione che parla appunto delle occupazioni delle scuole in maniera molto simpatica, perché da un lato dice come a lui gli hanno dato tanto nella vita e sono fondamentali secondo lui, e addirittura dice che non le istituzionalizzerebbe perché sarebbero svilite da questa cosa, però dice, ribadisce anche lui come poi dobbiamo stare attenti a, alle violenze, alle deturpazioni degli edifici scolastici. Invece mi sembra molto interessante quello che ci dici te, anche soprattutto rispetto a, a un'altra misura che il governo sta portando avanti, un altro progetto, è quello dello Sblocca Italia, sui cantieri, sulle opere pubbliche, come le scuole qua a Roma ma in tutta Italia siano a pezzi, in macerie, e come gli studenti quando le occupano addirittura vengono additati di rovinarle. Ma a me sembra, sembra ridicolo questa cosa. Invece anche tu ci raccontavi bene come anche il tema dell'edilizia scolastica e dello stato in cui vertono gli edifici, e quindi di come vengono spese le risorse pubbliche rispetto ai bisogni di chi vive questo paese, poi è completamente sballato. Sì, sì, ma questo rientra nel contesto del, di come vengono spese tutte le risorse in Italia, che come sempre vengono spese per fare da bancomat dei singoli partiti politici. Lo vediamo con la TAV in Val di Susa, lo vediamo con le spese militari, ma lo vediamo perché bisogna sempre andare a tutelare gli interessi di pochi a discapito dei tanti che oggi vivono situazioni di enorme difficoltà, e nei prossimi anni queste difficoltà si accentueranno. Pensiamo che stanno sottovalutando quello che è un rischio di conflitto sociale che esploderà se la situazione non cambierà, perché il sistema politico oggi, in cui c'è una suddivisione degli spazi di potere e dell'economia, poi non potrà funzionare ancora a lungo, perché il piano sociale, il tessuto sociale sta esplodendo, sta collassando, i vari percorsi di lotta di realtà anche molto lontane si stanno incrociando, e questo governo dovrà avere paura di quello che sta facendo, perché non sta risolvendo i problemi, ma anzi sta dando continuità e sta anche evolvendo quello che è un piano culturale che si è sviluppato negli ultimi decenni in Italia, ma anche da prima, e che sta prendendo sempre più forza. Però è proprio da qua, dal basso, dalle scuole, dalle fabbriche, dalle singole persone che riparte la ricchezza, riparte il concetto di quelle che sono le vere esigenze, i veri bisogni, le vere necessità. È da là che stiamo cercando di costruire un'alternativa, perché di fronte a una crisi culturale della politica bisogna rispondere con una cultura che parte dal basso, consapevoli che la ricchezza parte da là e che noi possiamo veramente cambiare le cose. Federico, so che avete già chiamato un'assemblea per questa settimana. Che cosa, dove l'avete chiamata, perché e quali iniziative state mettendo in programma nelle prossime settimane, anche per sentire? Abbiamo pensato a diverse assemblee questa settimana dentro la scuola nostra per andare verso il 12 dicembre. Abbiamo lanciato con gli studenti medi e pensiamo di lanciarla anche con altre realtà cittadine. Il 12 dicembre, una data importante, una data in cui ci sarà una folta composizione sociale in piazza che va ascoltata al di là dei sindacati che scenderanno in piazza. Secondo me noi in quella data dobbiamo arricchirla, ci dobbiamo entrare e inserire anche noi in quel contesto, portando i nostri contenuti e portando quelle che sono le problematiche che noi viviamo nelle nostre scuole, e quello che è un futuro che non ci appartiene, perché il peso di questa crisi lo stanno facendo pesare sulla nostra testa. Si continua a fare le solite politiche di forte con i deboli e deboli con i forti, che non portano da nessuna parte, ma io penso che prima o poi i governi lo capiranno e non possono continuare a fare andare in questa strada. Quindi noi non facciamo un passo indietro, continuiamo. In questo domani ci sarà un'assemblea con gli studenti medi romani appunto per lanciare la piazza del 12, in cui ci diremo anche dall'interno delle occupazioni di fare delle azioni di sensibilizzazione, ma anche sul territorio per coordinarci e capire quali possano essere i mezzi per riportare anche all'esterno quelle che sono le esperienze che noi viviamo dentro le nostre scuole durante queste occupazioni, e capire come far sentire forte e chiaro il messaggio che a me non ci sta bene quello che stanno facendo, e che la strada che stiamo percorrendo non è quella giusta. Ascolta, dove sarà l'assemblea, le prossime assemblee, dove saranno? Ah, non ho sentito, scusa. Mi senti? Mi senti? Ma non benissimo. Ok, ti chiedevo dove sarà l'assemblea domani e quella pubblica poi che verso il 12 anche. L'assemblea domani sarà da noi, okay, con gli studenti medi. Quella invece più larga dovrebbe essere a Virgilio, ma insomma dobbiamo confermare perché Virgilio è occupato stamattina, quindi lo sentiremo e capiremo bene oggi in giornata quale, come e quando faremo questa assemblea, probabilmente giovedì a Virgilio, però insomma questa è ancora una variabile, però insomma. Va bene, sicuramente ci andremo a sentire nei prossimi giorni anche altri interventi sulle assemblee di aggiornamento rispetto a come andranno le occupazioni e il percorso insomma che avete intrapreso con le occupazioni. Noi ti salutiamo e ti ringraziamo per il tuo contributo, Federico. Sono sempre disponibile. Ciao. Buona giornata.